Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Quella di oggi per noi è una puntata un po' delicata. In queste ore a Roma, in piazza Montecitorio, sono confluiti centinaia di risparmiatori italiani. Io mi collego subito con uno di loro, è Paola. Buongiorno Paola. Buongiorno. Allora, noi vorremmo raccontare subito ai nostri ascoltatori chi siete, perché siete andati a manifestare al Parlamento italiano, che cosa vi aspettavate questa mattina, poi io racconterò che cosa è successo, perché in realtà la vostra protesta, a quanto pare fino a questo momento, è servita a ben poco. Paola, che cosa le è successo? Allora, io racconto la mia storia, però che è identica a quella di altre centinaia di persone. Io ho avuto un lutto, mia mamma è morta nel 2007, aveva sottoscritto delle polizze vita, e quando sono andata a riscattare i soldi, mi è stato detto che era meglio comunque tenerli fino a quando le polizze non fossero giunte a scadenza, perché comunque in quel modo avrei riavuto l'intero capitale che era stato investito. E quindi io mi sono fidata, tra l'altro poi diciamo che ho chiesto in giro se era una pratica usuale, se era legittima, e mi era stato detto di sì, perché comunque a quel tempo praticamente il periodo di prescrizione delle polizze era di 10 anni. Quindi io tranquillamente ho ottenuto i soldi così, non li ho riscattati, e quando sono andata a comunque chiedere la liquidazione mi è stato detto che quei soldi non li potevo più riavere perché le polizze erano cadute in prescrizione, nel senso che entro 2 anni dal decesso dell'intestatario della polizza si potevano ritirare quei soldi scaduti. Quei 2 anni quei soldi sarebbero andati a finire nel fondo delle vittime dei crack finanziari. Paola, quindi, quanti soldi ha perso con questo meccanismo infernale che adesso ritorneremo a spiegare? Diciamo che sono oltre i 100.000 euro, perché era la liquidazione di mio papà che è morto nel 2005 e risparmi di una vita di mia mamma che faceva la casalinga e che diciamo risparmiava su tutto per me, che tra l'altro sono una ricercatrice precaria, quindi quei soldi a me sarebbero serviti veramente. Paola, rimanga collegata con noi, io sentirei anche la storia di Fabrizio se è possibile. Fabrizio, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. A lei è successo quello che è successo a Paola? Sì, la mia storia è molto simile, anch'io ho deciso da mia madre che aveva investito in questa polizza vita, mi sono rivolto agli uffici postali per chiedere cosa dovevo fare con queste polizze, con questa polizza sulla vita, e mi è stato detto tranquillamente più volte, ribadito più volte, che potevo tranquillamente portare a, diciamo, a scadenza la polizza, quindi a 10 anni, perché così era previsto anche da contratto, che sarebbe stato conveniente per me, appunto sempre dall'addetto di posta vita, sarebbe stato conveniente per me lasciare questi soldi, perché mi avrebbero fruttato di più e avrei evitato problemi di qualsiasi natura, perché eravamo io e mio fratello i legittimi beneficiari di questa polizza e quindi potevamo tranquillamente aspettare. Quindi ci siamo fidati, perché Poste, insomma, diciamo, è per noi un'istituzione, ci siamo fidati, abbiamo controllato, perché sul contratto di queste polizze, parliamo sempre di polizze Poste Vita, diciamo, c'è scritto esplicitamente che Poste Vita rinunciava alla prescrizione biennale, sì. esatto, c'è proprio espressamente nei fogli informativi a favore di una decennale, cosa, sì, a fuori questa decennale, quindi diciamo confidenti nel cosa meglio di delle Poste, diciamo che diciamo potevano essere un investimento sicuro, qualcosa di meglio di qualcosa di scritto per lasciare queste polizze, e ci siamo fidati fino a quando casualmente, per caso, perché nessuno ci ha avvertiti, ho saputo questa cosa e sono andato a chiedere nuovamente al personale di Poste e mi sono detto effettivamente purtroppo ricade anche tu in questa cosa. Esatto. Fabrizio, lei quanto ha perso? Io devo sintetizzare, poi magari vi faccio reintervenire. Quanti soldi sta perdendo? All'epoca mia madre investì 30.000 euro, però ovviamente 30.000 euro del 2001. Certo, vabbè, ammettendo che siano rimasti 30.000 euro, Fabrizio, lei, la sua e la storia di Paola sono le storie di eredi, di polizze vita, di congiunti scomparsi. ragazzi che si sono imbattuti con la legge varata nel 2008, la 166, la cosiddetta legge all'Italia, il cui meccanismo qualcuno ha definito assolutamente infernale. Allora, questa mattina tutte queste persone che sono rimaste coinvolte in questa, che per qualcuno è veramente una tragedia, pensate, non poter più rivendicare 100.000 euro che sono la vita per Paola, per poter continuare a vivere serenamente, per poter continuare a fare il suo lavoro che è di precaria, queste persone stamattina si sono trovate a Montecitorio in modo da poter fare ed esercitare un po' di pressione politica, perché oggi c'era un'ultima opportunità, quella di intervenire sul decreto incentivi che è stato approvato poco fa, ma con nessun intervento all'interno a favore di queste persone. Breaking news. Il CSKA Mosca sarà l'avversario dell'Inter nei quarti di finale di Champions League, lo ha stabilito poco fa il sorteggio svoltosi a Nyon in Svizzera. Nel notiziario delle 13 maggiori aggiornamenti. Abbiamo dovuto dar spazio anche ai colleghi della redazione. Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, buongiorno. Buongiorno. Lei è con tutti questi risparmiatori questa mattina, siete lì da un paio d'ore, purtroppo sì. Non siete riusciti a portare a casa il risultato cercato. Sono qui con queste persone, è una situazione che la sento ormai l'assurdo, perché per la terza volta non è stato approvato un emendamento che consentiva a queste persone, che sono veramente tante al di là di quelli presenti, coinvolte in questa storia, e per tre volte finanziaria, mille proroghe, oggi decreti incentivi, nessuno ha trovato una soluzione per queste persone, nonostante ci siano certezze circa l'incostituzionalità di questa norma. Ecco Picciolini, però se non ricordo male io adesso pian piano, peraltro per tutti coloro che non sono coinvolti e che magari non riescono anche a seguire con noi con grande chiarezza questa vicenda, perché non sono ovviamente coinvolti, per fortuna loro, ricostruirò poi con la collega del Sole 24 Ore Federica Pezzatti quanto accaduto, anzi Federica approfitto per salutarla, bentornata. Voi con Ad hoc e Lega Consumatori qualche mese fa avete preannunciato una causa collettiva, che cosa diversa dalla class action, nei confronti di Poste Vita e di un'altra compagnia di assicurazione, poi non so su questa se è andata avanti, perché loro sostenevano che non ci fosse il presupposto per una causa nei loro confronti, ma l'iniziativa è andata avanti, Picciolini, proprio perché credo avesse anche il fine di poter arrivare a dimostrare l'incostituzionalità della norma. È andata avanti come studio, perché noi speravamo in un ritorno di saggezza da parte del governo e del Parlamento. Noi abbiamo già tutto pronto, e visto che domani è l'ultimo giorno per poter riversare questi soldi, a questo punto qui certamente partiremo dalle cause collettive. Per essere chiari, saranno cause individuali che cercheremo di far ricompattare in un unico procedimento nelle varie procure a cui ricorreremo, perché anche qui bisogna essere estremamente chiari, perché sono persone che già stanno in difficoltà, azioni collettive in questo caso non sono assolutamente possibili. Mm-hmm. Allora Picciolini, rimanga collegato con noi. Federica, dobbiamo, come giustamente dobbiamo fare, anche un po' ricostruire l'accaduto, che è molto complicato, e anche noi ci stavamo dicendo a microfoni spenti, attenzione anche alle parole che utilizziamo, un meccanismo infernale lo ha definito la rivista Salvagente, di cui ho letto qualche articolo, ma soprattutto di cui ho letto tante testimonianze che anche a loro sono arrivate, come è successo a noi, come è successo anche a te alla redazione di Plus 24. Allora, meccanismo infernale. È la legge 166 del 2008 che prevede che le polizze vita, a prescindere dalla loro naturale data di scadenza, vadano in prescrizione, quindi non si ha più diritto ad incassare quanto teoricamente l'intestatario appunto avrebbe diritto ad incassare. A rendere più incredibile il meccanismo di questa legge è che questa legge ha un effetto retroattivo, quindi significa che pur essendo stata varata nel 2008, teoricamente è entrata in vigore nel 2006. Sì, esatto. Praticamente, detto proprio in estrema sintesi, praticamente per i decessi accaduti a partire dal 1 gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 c'è questo problema di retroattività. Praticamente questo ha coinvolto molte persone che magari avrebbero potuto avere tranquillamente i loro soldi, e soprattutto il problema è sentito soprattutto per quelle persone che comunque avevano atteso l'incasso della polizza, pur essendo andati magari agli sportelli postali, in quanto è stato detto loro proprio agli sportelli che Poste Vita rinunciava a questo termine, che prima peraltro era di un anno, e consentiva di incassare la liquidazione fino a 10 anni dall'evento, per cui chiaramente, come abbiamo visto dalle testimonianze, che immagino non ci siano dubbi sulla verità di queste testimonianze, perché un figlio, vuoi che non vada a chiedere soldi quando purtroppo è scomparsa la madre? Stiamo parlando di persone che comunque hanno un grande bisogno di questi capitali e sono stati evidentemente rassicurati, perché dubito che abbiano trovato questi soldi per caso, queste polizze per caso. Anche perché adesso sono prodotti di risparmio per loro natura molto semplici, ricercati mediamente da persone molto semplici, certo. Non stiamo parlando di prodotti sofisticati, strutturati, agganciati, unit LinkedIn, ma no, siamo parlati di persone che magari risparmio. Hanno sostituito un certificato di deposito, un buono fruttifero con le anche perché Poste Vita è cresciuta molto, è diventata la prima compagnia vita proprio grazie al fatto che ha questo bacino d'utenza, mm-hmm, che è rappresentato da persone che si recano in posta perché è presente in tutti i piccoli paesini d'Italia, perché comunque è una sicurezza, perché vende praticamente anche buoni fruttiferi che sono garantiti dallo Stato, emessi peraltro dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi praticamente sono persone che ricercano non speculazione come nel caso di Parmalat e di Cirio per certi versi, no? Nel senso che per lì qualcuno sì, è successo anche quello, sì, o anche per l'Italia, perché io mi ricordo che quando veniva promessa il mantenimento dell'italianità della compagnia, molti sono affrettati a comprare titoli proprio in quel periodo, perché tutti erano convinti che lo Stato salvasse la compagnia di bandiera e quindi questa promessa di salvataggio facesse schizzare il titolo e tutti a comprare, quindi lì è stata un'altra storia. Qua non stiamo parlando di speculatori, dell'opposto, ecco. Direi, perché se uno compra una polizza di Poste Vita magari rivalutabile perché comunque vuole stare sulla sicurezza, poi si trova di fronte purtroppo a questo doppio, mm-hmm, perché uno già ha un lutto in famiglia e mi immagino il dolore di un figlio, se poi pure i risparmi di una vita dei genitori vengono, diciamo così, sottratti in questo modo, a me stupisce molto, sono molto allibita del fatto che a livello politico non si capisca la gravità di questa cosa. Infatti volevo ritornare per un attimo a Fabio Picciolini, poi spiegheremo anche il meccanismo per cui gran parte delle polizze di cui stiamo parlando sono riconducibili appunto a Poste Vita, perché magari si fa un po' meno parlare di altre compagnie di assicurazione oppure anche delle banche che vendono polizze di assicurazione, però il tema è che è stato necessario esercitare una certa pressione in questo periodo, un po' per naturalmente cercare di prendere il treno del decreto incentivi, perché con mille proroghe non si era riusciti anche in quel caso a proporre nessun emendamento risolutivo della questione. Però Picciolini, a fine marzo che cosa succede? Ma succede che Poste Italiane dovranno versare al fondo i soldi che hanno accantonato per queste polizze. Quindi al Ministero del Tesoro e al fondo per le vittime dei crack. Esatto. Sì, anche questa qui è un'altra cosa veramente assurda, cioè si verseranno dei soldi, ma ad esempio chi per altri titoli, tipo i conti correnti o deposito certificati, dovesse chiedere di avere la restituzione di soldi, non lo potrà fare perché il Ministero non ha fatto il tesoro, non ha fatto il regolamento. I 100 milioni a favore dei risparmiatori all'Italia non potranno essere richiesti perché il Tesoro Tremonti non ha fatto il decreto per dire, il regolamento per dire come rimborsare questi soldi. Quindi veramente è una cosa che non si capisce, sono d'accordo con la giornalista che è con lei, come si fa a non capire la gravità di quello che hanno fatto. Infatti, peraltro, un'ultima considerazione dalla quale poi magari ripartiamo nella seconda parte della trasmissione, si stima che questa legge abbia colpito 10.000 risparmiatori che avrebbero perso somme che vanno da poche migliaia di euro, ma anche un euro sottratto in questa maniera ha la stessa identica dignità di 100.000 euro sottratti nella stessa identica maniera, fino a punte che raggiungono i 100.000 euro a famiglia, il caso di Paolo che abbiamo sentito. In totale, fra tutti i risparmiatori, è stata stimata una cifra sicuramente superiore a 50 milioni di euro, che è un'enormità ovviamente per noi poveri disgraziati, ma io mi chiedo anche il bilancio di un governo che cosa si faccia, che cosa se ne possa fare di questo denaro, visto che i problemi insomma sono ben più ampi. 800 24 00 24, non vi ho ancora ricordato il numero verde per intervenire se avete delle richieste di chiarimento, se non siete andati a Roma a manifestare questa mattina a Montecitorio ma siete sparpagliati in altre zone d'Italia ma alle prese con la stessa tragedia, chiamateci, perché anche noi magari con il nostro piccolo cerchiamo di esercitare la pressione affinché in qualche maniera si intervenga a favore di un cambiamento di questa legge. Eccoci ritrovati a Salvadanaio questa mattina. Stiamo facendo questo filo diretto con un sit-in che si sta tenendo a Montecitorio, dove sono confluiti, ve lo raccontavo all'inizio, decine e decine di risparmiatori. Adesso esattamente quanti siano non lo so, sono tutte quelle persone che, accompagnate da alcune associazioni dei consumatori, si sono imbattute, loro malgrado naturalmente, in una legge, perché ovviamente le leggi poi ci piovono addosso, le cerchiamo raramente, soprattutto quando hanno queste caratteristiche. Una legge varata nel 2006, la 166, la cosiddetta legge ad Italia, che praticamente ha provocato a queste persone l'impossibilità di riscattare investimenti fatti da familiari in passato, in particolar modo riscatti derivanti da polizze vita, in particolar modo sottoscritti presso le Poste Italiane. Allora, c'è qualche ascoltatore che ci chiede anche perché non abbiamo invitato Posto, l'abbiamo fatto in passato, sono già venuti a spiegarci i motivi per cui non restituiscono questo denaro, perché loro ottemperano alla legge, alla lettera, alla legge dello Stato. E quindi stamattina quello che ci interessa è sostenere queste persone che stanno manifestando a Montecitorio con le associazioni dei consumatori, affinché si faccia un'azione di pressione molto forte, perché anche per noi questa legge è folle. Federica Pezzatti, lo abbiamo detto più chiaro di così. Certo. Una posizione più chiara di così, non so come altro potremmo prenderla. Abbiamo altri ascoltatori, c'è che ancora stiamo, altri ascoltatori che stiamo pescando da Montecitorio. William, buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Sì, sì, vi sento. Ci può raccontare anche la sua storia? La mia storia, diciamo, mio nonno è morto nel 2005, ci aveva lasciato sì alla mia famiglia circa 10.000 euro con una polizza vita, e poi come si può dire? Quando siete andati a chiedere di riscattare questo denaro, a chiedere dopo la sua morte, ci hanno detto no, lasciateli qui fino alla scadenza, perché come scritto nel contratto le Poste davano 10 anni per riscattare la polizza. Certo. E quindi poi quando le è venuto, come dire, l'intuizione di andare di nuovo a richiedere per riprendersi questo denaro? Noi ormai la polizza scadeva nel 2012, quindi ormai aspettavamo la scadenza, però nell'estate del 2009 ci telefona la Posta e ci dice: guardate che è stata fatta una legge, i vostri soldi non ci sono più perché trasferiti a un fondo del Ministero delle Finanze. E quindi noi, cadendo dalle nuvole, siamo... Certo. Perché poi naturalmente in questo contesto ovviamente l'informativa ai clienti è stata fatta a posteriori, se è stata fatta. Federica Pezzetto, cioè, io dubito che l'abbiano fatto. Probabilmente, non so se è il caso di William, conosceva il dipendente, è stato uno scrupolo magari della persona che gli aveva detto. Io William, non so, come è avvenuta la morte? Quindi ci ha telefonato, ma il dipendente persone, sì, della no, nel senso che probabilmente molte persone non, certo, abita in un paesino, magari. E magari era stata la stessa persona, William, che le aveva suggerito di non smobilitare il capitale? Sì. Perché probabilmente lo conosceva, però io penso alle migliaia di risparmiatori che hanno avuto lo stesso trattamento e che non leggono i giornali così assiduamente, o che non sono, perché l'unico modo per apprendere che c'è questa cosa, questa mina che... Infatti, è un po' il passaparola, anche perché tra l'altro il passaparola sono i giornali, l'informazione, che però mi pare che anche i nostri colleghi, Debora, non sono così sensibili, no, in televisione è un tema non un po', hanno visto infatti, nulla. No, tra l'altro guarda, chiediamo adesso all'associazione dei consumatori, queste persone che sono finite in questa gabbia, addirittura si sono organizzate su Facebook, e quindi c'è anche, insomma, un'occasione in cui un social network che potrebbe essere all'apparenza qualcosa di molto quanto più lontano al mondo del risparmio, invece per fare un po' di tam tam si sono organizzati anche lì. Volevo ritornare, saluto Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Presidente, buongiorno. Sì. Anche lei è lì a Montecitorio, se non sbaglio, sì, no? Sì, salve, sì. Allora, sono qui anche con gli altri amici dell'altra associazioni, esatto, soprattutto con i risparmiatori colpiti da questo, diciamo, questa appropriazione indebita, chiamiamola così. Infatti, che lo dicevamo, lo possiamo anche raccontare questo episodio, Longo, ci raccontavamo ieri così un po' organizzando questa nostra telefonata, ci ricorda molto il pieno dello scandalo della Banca Popolare di Lodi, quando si scoprì che Gian Piero Fiorani aveva adottato un sistema per incrementare i profitti della banca, molto originale. Sì, aveva appioppato, diciamo, 30 euro su ogni conto corrente. Forse anche 50 in qualche circostanza. Forse da 30 a 50, insomma, perché gli servivano cash 30-50 milioni di euro. Quindi un milione di conti, 30-50 euro a conto, era, come dire, fatto subito l'incasso. Quello che è, diciamo, davvero odioso in questa vicenda è che, da una parte, per il bilancio dello Stato, queste decine di milioni di euro sottratti sono davvero non una briciola, una piccolissima infinitesimale briciola. Tra l'altro non sono soldi dello Stato questi, sono soldi dei risparmiatori. Invece per quasi tutte le famiglie colpite da questa rapina vera e propria, i 30, i 50, i 60 mila euro sono un gruzzolo che era stato accantonato magari dal padre, dalla madre, da un fratello, eccetera, per comprare la casa alla figlia che si sposava, per assicurarsi la vecchiaia. Quindi è davvero una vicenda incomprensibile da tutti i punti di vista. Ecco, dicevamo con Federica Pezzatti, presidente Longo, che comunque ha fatto molta fatica questa notizia a passare sui giornali in maniera sufficientemente enfatizzata quanto meriterebbe. Perché è così complicata? Io adesso non voglio dire che sia così scomoda per il governo, perché vabbè, sono 50 milioni di euro, è tanto complicata, non si è riuscita a comprendere. Per quale motivo, secondo lei? È un caso che non riguarda milioni di persone, di famiglie, riguarda alcune migliaia. Sono i numeri, di famiglie, quindi. Sono i numeri che, come spesso capita, quindi fanno pendere la bilancia dalla parte di una enfasi oppure di una sottovalutazione della notizia. E va riconosciuto che voi siete stati tra quelli che più hanno dato visibilità e voce a questi consumatori, che poi queste famiglie che sono sparse su tutto il territorio nazionale. Siamo riusciti con enorme fatica, anzi sono riusciti loro attraverso Facebook, un gioco di email eccetera, a manifestare qui a Roma, ma sono disperse su tutto il territorio. Le associazioni dei consumatori che li stanno affiancando stanno dando un supporto organizzativo e soprattutto daranno un supporto legale, perché questa vicenda Tremonti, il governo eccetera la pagheranno cara dal punto di vista economico e giudiziario, perché siamo pronti a partire con le cause. Infatti, perché adesso il tema è anche capire, visto che è assolutamente impensabile che queste persone possano rinunciare al loro denaro. Io ricordo ancora che veramente mi ha colpito molto la prima storia, non perché 10.000 euro non abbiano la stessa dignità, ma la storia di Paola all'inizio della nostra trasmissione: 100.000 euro, entrambi i genitori persi, giovanissima, fa la ricercatrice, non soldo, precaria. E in un momento come questo, voglio dire, anche trovarsi un'altra alternativa di lavoro è molto complicato. Per lei quel denaro è continuare a vivere con un minimo di dignità, quindi è impossibile che questo denaro le venga sottratto. Noi questa cosa non l'accettiamo. Detto questo, volevo tornare per un attimo a Fabio Picciolini, poi abbiamo anche altri ascoltatori che non sono a Roma, ma li abbiamo recuperati grazie alla trasmissione. Picciolini, allora, non abbiamo il mille proroghe, non siete riusciti stamattina a cogliere l'opzione del decreto incentivi. Io non vorrei nominare i partiti perché sono in piena par condicio, non posso farlo e quindi non mi posso mettere in difficoltà anche con chi ci vigila in questo frangente molto delicato. Ma a questo punto una soluzione, un'altra possibilità sarebbe quella di avere l'opportunità di presentare emendamenti al decreto incentivo, al decreto incentivi durante la discussione parlamentare del provvedimento. Sì, affinché qualcosa cambi, ecco. Sicuramente lo faremo, cioè ormai è pronta la legge per il sostegno alle famiglie, lo faremo anche lì. Il problema è che purtroppo oggi, domani, è l'ultimo giorno per poter fare una cosa che abbia una logica nell'immediato, perché sicuramente a questo punto qui dovremo partire con le azioni giudiziarie, perché, ripeto, domani è il giorno in cui Poste dovrà spossessarsi di questi soldi a favore del fondo. Quindi noi dobbiamo sicuramente ormai partire con le cause e noi cerchiamo di fare l'impossibile a favore di questi risparmiatori, signori, che poi peraltro, come diceva prima Antonio Longo, hanno avuto anche una difficoltà familiare e di quella gravità, ma abbiamo situazioni di 2.000, di 3.000, di 5.000 euro, quindi c'è anche un costo che purtroppo va sostenuto e che in parte sosterremo anche noi, probabilmente nei limiti delle nostre possibilità. Quindi è una partita estremamente difficile che non si è voluto risolvere da parte del governo. Questo è il punto nodale, non si è voluto risolvere. Allora, io devo andare, suggerimenti perché in viaggio, ma forse faccio in tempo a sentire anche una telefonata. Allora, chi possiamo scegliere? Sentiamo Mario D'Alecco, magari, esatto, che ha risolto il suo caso perché non si è lasciato tentare dalla proposta dello sportello di mantenere lì depositato, in sostanza, questo prodotto. Mario, buongiorno. Buongiorno. Esatto, volevo solo confermare questo, che anche a me è stato consigliato così. Quindi secondo me era una direttiva di Poste Vita e dovrebbe essere Poste Vita assumersi la propria responsabilità. No, tra l'altro, sì, Mario, concluso, mi scusi che sentivo un po' disturbata. Sì. No, sì, sì. No, peraltro, Fabio Picciolini, posso tornare da lei? Lei questa richiesta in maniera abbastanza esplicita alle Poste di incaricarsi di questi 6.000 clienti, perché credo che la stima dei clienti coinvolti su Poste Vita sia questa, aveva proprio chiesto di incaricarsi attraverso un indennizzo in qualche maniera di queste persone? Noi abbiamo coinvolto sia l'amministratore delegato Sarmi che sia l'amministratore delegato di Poste Italiane, la dottoressa Bianca Poste Maria Farina, dottoressa, sì. Bianca Maria Farina, in tutti i modi, facendo anche presente che il loro contratto non prevede affatto la prescrizione annuale prima e biennale oggi, ma prevede contrattualmente la prescrizione decennale. Adesso io non sono un legale come sa, ma credo sia abbastanza semplice ricordare a tutti che il contratto tra le parti può essere anche migliorativo rispetto a quello che è la legge, quindi secondo noi le Poste si stanno coprendo dietro un fatto che non esiste, quindi su questo problema qui, è stato detto anche prima, la pagheranno tutti, e non perché vogliamo assolutamente dire governo sì, governo no, anche noi no ma non ci interessa, siamo in governo tutti, no, ma infatti io le dico, noi abbiamo fatto una lettera a tutti i gruppi parlamentari, compresi i gruppi misti, ai presidenti delle Camere, al Ministro, al Presidente del Consiglio, cioè, ripeto, è un fatto che è incomprensibile, perché è vero che stiamo a raschiare il barile, tutta Italia, la crisi e via dicendo, ma sono soldi che sono di persone, peraltro che hanno problemi, e sono soldi che per altra parte debbono tornare ai risparmiatori. Quante volte abbiamo parlato dei crack dell'Alitalia o di Parmalat e Sirio? Ecco, non si sa né quando questi signori riprenderanno i soldi, né anche gli altri che dovranno riprendere anche loro i soldi, quando li riprenderanno anche loro, perché neanche i regolamenti fa questo governo. Roberto da Torino, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Vorrei raccontarci buongiorno. Anche la sua storia. Certo, allora io sono fortunato e sfortunato nello stesso tempo. Fortunato perché ho saputo tramite le Poste che stava scadendo una polizza a mio suocero. Era mancato un anno fa circa. Ah, perché lei non sapeva che il suocero l'avesse sottoscritta? Non lo sapevo. Certo, allora, capita anche questo. Allora, l'ufficiale postale, abito in un paesino piccolo, mi fa: guardi che suo suocero aveva fatto una polizza così, guardi che fra qualche giorno scade. Allora prendiamo la polizza, andiamo in posta e facciamo il tutto. Io guardo una polizza che aveva fatto mia madre a nome mio, e questa polizza io l'avevo già, ero già andato in posta appena era mancata, e mi avevano detto: guardi, la tenga pure tranquillo, quando scade nel 2012 venga che gliela paghiamo tutta tranquillamente. Allora prendo questa polizza, vado appunto in posta e gli dico: mi scusi, e questa? Mi fa: lei è talmente fortunato che ha perso 10.000 euro. Guardi un po'. Quindi è riuscito a riscattare quella, fatto in tempo a riscattare quella di suo suocero? Cavolo, pochi giorni. Lei ha detto che stava guardando, appunto, essendo un paesino piccolo, ci conosciamo tutti, e allora mi ha avvisato telefonicamente. Però invece l'altro non mi hanno avvisato assolutamente. Forse questa impiegata, Roberto, ci dispiace, dovrà mettersi, come dire, lasciarsi sostenere, se lo vorrà, da queste iniziative che stanno prendendo vita in questo momento con l'Associazione Consumatori per la Verità da qualche mese. In questo caso, forse proprio valutando un po' quello che capita in un piccolo paesino, la dipendente, forse conoscendo la norma, sì, Federica, probabilmente. Praticamente io penso che Poste sia presente ovunque. Se è presente in un paesino piccolo, chiaramente questi poveri impiegati che loro malgrado hanno dovuto magari anche consigliare di aspettare ad incassare. Chiaro che se io conosco la persona tramite, come abbiamo visto anche nel caso di William, avviso magari che purtroppo non è più incassabile, e avviso che sta per scadere, quindi quello, il contatto personale, penso che sia la cosa. Però mi stupisce molto che Poste non abbia fatto a questo punto una bella lettera a tutti, visto che loro sanno scadenze di tutte le polizze. Infatti, a quelle che sono ti arriva una la bella legge. Mail a tutti quelli che hanno una polizza vita, in modo che se la persona non c'è più, è scomparsa, i beneficiari potranno in qualche modo tramite la corrispondenza venire a sapere che c'è la polizza che sta scadendo, perché poi il problema è che anche le polizze sottoscritte dopo il febbraio 2008 stanno via via entreranno in prescrizione, chiaramente, perché certo. Ogni mese si prescrivono polizze sottoscritte qualche anno prima, certamente. No, magari si può sentire le associazioni dei consumatori, magari torno un attimo ad Antonio Longo. Ovviamente qua la battaglia grande è da fare su chi già sta rischiando, perché io ancora vorrei continuare a parlare di rischio, non di perdita alla quale ci si deve rassegnare. Quindi la vostra battaglia in questo momento è su queste persone, però bisogna anche fare una campagna informativa molto chiara su chi potrebbe rischiare nei prossimi mesi di vedere sfumare il proprio investimento Longo e magari ancora potrebbe riuscire a salvarlo. No, ma questo è certo, ed è quello che intendiamo fare. Da una parte, quindi, tutelare immediatamente con azioni giudiziarie le persone che stanno perdendo o hanno perso il diritto al riscatto della polizza. Dall'altra, noi chiederemo a tutte le associazioni, immagino, a Poste Vita, di fare magari dei comunicati stampa sui giornali, delle pagine dei giornali con cui invitano tutti i titolari, eredi, sottoscrittori, eccetera, a tener conto di questa odiosa scadenza che rischia di far perdere loro i risparmi. Quindi assolutamente benvenuta la sua sollecitazione, la sua domanda, perché è quello che faremo con Poste Vita da domani, diciamo. Benissimo. Gino da Roma, sentirei come ultimo ascoltatore di oggi, ci avete chiamato in tanti, io vorrei rassicurare che chi ha sottoscritto buoni fruttiferi postali non corre nessun rischio, quindi state tranquilli, vedo molte telefonate in questo senso, chiaramente essendo il prodotto di base sottoscritto in Poste, gli ascoltatori, Federica si sta spaventando, no, anche su questo. Magari dobbiamo precisare, Deborah, che praticamente si tratta di polizze vita sottoscritte da persone purtroppo per loro defunte, quindi è chiaro che stiamo parlando solo di polizze intestate a persone che in questo momento gli eredi non riescono a riscattare per tutta la problematica. Sono più che sicuri. Esatto. E poi volevo dire un'ultima cosa, che in realtà ci sarebbe un'altra finestra temporale, perché il versamento vero e proprio Poste lo farà il 31 maggio, come ci disse anche il dottor Raimondi, che è insomma il responsabile Vita, che segue in sostanza, il di Poste. Sì. Sì. Sì, e invece dentro il 31 marzo devono solo segnalare l'elenco delle polizze prescritte secondo appunto questa nuova i dettami legge. Della legge e quindi il versamento c'è tempo fino al 31 maggio, per cui anche Poste Vita diceva magari riusciamo prima del versamento materiale, perché finché i soldi non sono versati in un certo senso potrebbero forse essere bloccati in teoricamente qualche modo. Ci sono anche per cui magari in linea di principio due mesi di tempo. Gino da Roma, rapidissimo, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa Rosciani. Io ho prodotto tutta la documentazione per il riscatto di una polizza sottoscritta da mia madre deceduta. Sì. Ho prodotto la documentazione per il riscatto così come aveva suggerito la banca. Sono trascorsi 4 mesi e non ho avuto nessuna risposta. La domanda è: corro dei rischi? Bisognerebbe. Allora, sentiamo Fabio Picciolini come ultima riflessione, rispondendo anche al nostro ascoltatore. Bene che insista con la banca, Picciolini? Purtroppo ad oggi è inutile, comunque fa bene ad insistere, ma non si attenda molto di più di quello che tutte le altre 10.000 persone che sono coinvolte nella stessa. No, magari sentiamo un po' i termini. Gino, è ancora in linea? Sì. Quando è venuto a mancare il suo congiunto? 6 mesi fa. Infatti, perché ha 2 anni in te. Però insista. Esatto. Però Gino insista, in ogni caso. Si faccia sentire, si faccia dare della documentazione scritta sulle decisioni che prendono lì dentro. Allora, nostra trasmissione sta terminando. È stata una bella fatica. Speriamo di aver prodotto qualche risultato. Picciolini e Longo, buon lavoro. Andate a casa adesso o rimanete ancora lì a Montecitorio un po'? Ci risentiamo benissimo, ci risentiamo prossimamente, perché questa è una battaglia che non abbandoneremo senz'altro. Federica, dobbiamo ricordare ancora qualcosa su Plus 24? Sicuramente ritorni? Noi su Plus 24, sicuramente lo spazio, anzi daremo spazio proprio, noi abbiamo questo filo diretto con i clienti delle polizze vita, si chiama Polizze Chiare, non voglio fare pubblicità, però no, ma fai benissimo, perché fai questa campagna da almeno 3 anni. Abbiamo questa missione che è quella di cercare di far chiarezza, perché i prodotti sono in certi casi validi, in certi casi un po' meno, però in ogni caso cerchiamo di mettere in luce tutte queste vicende di giovani che magari appunto, come abbiamo detto, sono anche orfani e riteniamo che sia proprio scorretto che debbano rimanere senza i soldi e i risparmi. Ci dà un po' fastidio parlare di furto, ecco. Però io veramente stamattina ho fatto fatica a trovare un sinonimo. Grazie Federica, buon lavoro. Grazie a tutti, grazie in particolare a Gaia Romani che questa mattina veramente è stata dietro ai telefoni incandescenti, oltre ad avermi aiutato ad organizzare tutta la trasmissione. Noi ci sentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti. We'll be right back.